Letture di Radio 24. Giuseppe Scaraffia, docente di letteratura francese all'Università La Sapienza di Roma, descrive sulle pagine della Domenica del Sole 24 Ore in edicola oggi l'inesplicabile dilemma del bacio attraverso le esperienze di alcuni grandi scrittori. Ho paura di un bacio, come di un'ape. Soffro e veglio, senza riposarmi. Ho paura di un bacio, confessava il dissipato Verlaine. Quindi, perché stupirsi se anche in quest'epoca influenzata dalla pornografia il bacio conserva una carica emozionale così intensa? Senza scendere a moccia, la trionfale rinascita del mito del vampiro e del bacio che può dare la morte, ma anche l'amore eterno, ne sono la prova. Sempre più spesso sono le ragazze a baciare per prime e lo stupore che destano è lo stesso provato da Stendhal a Parigi, quando la giovane Giulia Rinieri de Rocchi l'aveva baciato, bisbigliandogli «So bene, è da molto tempo che sei vecchio e brutto». Sorpreso, lo scrittore aveva annotato «Accoglienza stupefacente di Giulia, ma purtroppo le sue confidenze hanno smontato la mia immaginazione». «Certo», ammoniva l'impetuoso Maupassant, «un bacio legale non vale mai come un bacio rubato». Eppure i baci estorti di rado sono fortunati. Il povero Balzac, dopo averne rubato uno a una marchesa a Lumeuse sulle fredde sponde del lago di Ginevra, venne subissato di rimproveri. Per gli amanti fortunati, come D'Annunzio, nella cornice romana della quieta via Gregoriana, il bacio è un'estasi. Un bacio li prostrava più d'un amplesso. Distaccati, si guardavano con gli occhi fluttuanti in una nebbia torbida. Ma Georges Sand doveva accorgersi che l'etereo Chopin avrebbe voluto fermarsi al bacio. Certo, ci sono baci illusivi, come quelli concessi dalla sinuosa Tamara de Lempicka a D'Annunzio sul lago di Garda. Illuso dai suoi baci profondi, il vate del Vittoriale si illudeva di farla capitolare, ma dopo averlo coperto di impronte rosse di rossetto con le sue labbra, la pittrice lo respinse con la scusa di temere la sifilide. I treni, con i loro sobbalzi che avvicinano i corpi e la sensazione di una provvisoria extraterritorialità morale, possono essere un ottimo terreno di caccia. Sul treno per Lourdes, l'ardito Marinetti operò un miracolo. Sedotto dai denti brillantissimi di una sconosciuta dello scompartimento vicino, il futurista uscì dal vagone e la raggiunse dall'esterno, rischiando mille volte di cadere. Un bacio, te ne supplico la bocca, ancora la tua bocca!» Come rifiutargli qualcosa? Anche i baci hanno un sapore. Lo sperimentò la schiava d'amore di Malaparte, Bianca Maria Fabbri, sua compagna a Capri. Il primo bacio tra noi ebbe un sapore fresco, pulito, un sapore di lacrime non più amare. Anche i baci hanno un rumore. Nelle vie di Dublino, Nora dava al futuro marito James Joyce baci rumorosi. Solo e triste una notte a Londra, nella cattedrale di Westminster, Chateaubriand sentì il rumore di un bacio. Era la figlia del campanaro della chiesa. C'è chi, come Scott Fitzgerald, cerca di ridurne il valore. Il bacio ebbe origine quando il primo rettile maschio leccò la prima rettile femmina, alludendo in modo sottile e complimentoso al fatto che era succulenta come un piccolo rettile che aveva baciato la sera prima. Forse perché Zelda, in Alabama, gli aveva confessato di avere baciato un aviatore baffuto solo perché non aveva mai sperimentato un bacio coi baffi. Ci sono baci di iniziazione, come quello scoccato senza preavviso da Colette a Rosven, in Bretagna, al figliastro adolescente che rischiò di cadere per l'emozione. Ci sono baci esibizionisti. Catherine Robe Grillet baciò appassionatamente un'amica in un ingorgo del traffico di Parigi più per scioccare la gente delle auto vicine che per piacere. Ci sono baci imprudenti. Alma Mahler si fece scoprire annotando sul suo diario un bacio dato a Klimt a Genova. Non sapeva ancora, come l'inesorabile Jean-Paul, che il primo bacio è uno solo, il secondo non c'è, poi ci sono solo ultimi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giuseppe Scaraffia, pubblicato dall'Inserto Culturale La Domenica, allegato a Il Sole 24 Ore di oggi. Vittorio Hazan e Paolo Moscato hanno rispettivamente 80 e 73 anni e vivono a Milano. I loro padri sono stati deportati nei lager nazisti mezzo secolo fa. Dovrebbero essergli riconosciuti gli assegni vitalizi di benemerenza per i perseguitati razziali, ma ancora oggi stanno aspettando una risposta dallo Stato. Erano bambini quando le leggi razziali li hanno privati prima del diritto di andare a scuola, poi di tutti i beni, infine costretti a vivere nascosti. I loro padri sono morti nei campi di concentramento nazisti. Sopravvissuti alle persecuzioni e alla guerra, hanno ricominciato da zero, dal nulla. Oggi sono anziani e ancora aspettano di vedersi riconosciuto l'assegno vitalizio di benemerenza previsto da una legge dello Stato, la numero 932 del 1980. Le storie di Vittorio Hazan e Paolo Moscato, milanesi d'adozione, sono quasi gemelle. Il primo, oggi ottantenne, da 3 anni combatte con le carte bollate e, pur avendo vinto un ricorso alla Corte dei Conti, ancora non ha visto il primo dei piccoli assegni dovuti. Il secondo, 73 anni, medico geriatra in pensione, si è visto negare il riconoscimento con motivazioni fragili e presenterà a sua volta ricorso. Perché ormai, dice, è diventata una questione di principio. Vittorio racconta non la sua storia, ma quella del padre, che per l'Italia ha combattuto, fece la guerra del 15-18, finì mutilato 7 volte, decorato con la medaglia d'oro e poi finì gasato ad Auschwitz. Quella medaglia, all'indomani delle leggi razziali, gli venne tolta e mai più restituita. Come i negozi di tappeti in via Monte Napoleone a Milano e in via Cesare Battisti a Torino, depredati dai nazisti. E nessuno mai in 60 anni ha più avuto un pensiero per la sua famiglia. Sulla sua infanzia rubata, nascosto per anni dai salesiani, trasferito di scuola in scuola per sfuggire ai rastrellamenti, Vittorio preferisce mettere una pietra. Ma anche se ormai ottuagenario, non cede sul diritto a quella simbolica provvidenza prevista per i perseguitati politici antifascisti o razziali. Così anche il dottor Moscato, che ha ritrovato il piccolo quaderno a righe ingiallito dal tempo nel quale la madre Gilda ricostruisce i giorni delle famiglie ebree trascorsi in convento. Le donne insieme alle compagne dei partigiani vestite come suore al convento di Santa Zita a Lucca, gli uomini nascosti tra i frati della certosa di Poggio Farneta, i frati saranno tutti trucidati, gli uomini deportati, i bambini in un orfanotrofio poco distante. Ho saputo non molto tempo fa di questo riconoscimento dovuto a chi ha subito le persecuzioni dopo le leggi razziali. Ho presentato domanda e mi è stata respinta con una motivazione assurda. Le mie cugine ancora viventi, che hanno testimoniato come eravamo rimasti segregati e nascosti in convento, erano anche loro con me, ma non lo hanno precisato e questo rende nulla la mia domanda. Ma quel che c'è da sapere è tutto scritto nel quaderno di mamma Gilda. Una brutta sera, non lo dimenticherò mai, la radio era accesa e mentre trasmettevano il notiziario, la Radio Monaco annunziò che per gli ebrei italiani sarebbero state applicate le leggi di Norimberga. Il mio cuore cominciò a battere a precipizio, mio marito cadde addirittura quasi privo di sensi, pensando a quali terribili pericoli noi e la nostra famiglia si andava incontro. Di qui ebbe inizio la fuga. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Noi, vittime delle persecuzioni, aspettiamo ancora il vitalizio» di Paola D'Amico, pubblicato dal Corriere della Sera di lunedì 24 gennaio. New York, la grande mela. Una città nota specialmente per la sua multiculturalità. Cinesi, messicani, portoricani, afroamericani, italiani e così via. Ma negli ultimi 10 anni le etnie di New York sono cambiate molto più del previsto. Cosa è successo? Ce lo racconta Federico Rampini sulle pagine della Repubblica. Scordatevi di venire in pellegrinaggio all'Italy Italy per scoprire la comunità italo-americana di Manhattan, sfrattata dai cinesi. Perfino a Brooklyn sareste delusi. I nostri diventano sempre meno visibili, schiacciati nella manovra a tenaglia di asiatici e messicani. Perfino i neri battono in ritirata. Sia Harlem che il Bronx non sono più quello che credevate e lo spagnolo è molto più parlato dell'inglese. New York è trasfigurata, Le sue mappe sono tutte da rifare. 10 anni di immigrazione hanno sconvolto gli equilibri etnici di questa città. La Grande Mela del 2010 è irriconoscibile rispetto a quella del 2000. I risultati dell'ultimo censimento, anticipati dall'American Community Survey, dicono che in un decennio i 5 principali distretti della città, Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island, Bronx, hanno assorbito ben 700.000 stranieri. Gli ultimi immigrati sono andati ad aggiungersi a quella che era già la città più multietnica del mondo. Ma le caratteristiche di questo flusso poderoso sono profondamente diverse dal passato. Cinesi e messicani dominano su tutti, sconvolgendo equilibri antichi tra le popolazioni. La rottura più vistosa è la fine dei quartieri monoraziali di una volta, tutti bianchi o tutti neri. L'ultimo quartiere tradizionale, dove il 95% degli abitanti sono bianchi, con una prevalenza italo-irlandese, è il minuscolo Breezy Point, una lingua di terra all'estremità della penisola Rockaways, nel Queens, quasi una ritirata sul bordo dell'oceano. I cinesi non si accontentano più di occupare il 63% della storica Chinatown e annettersi Little Italy. Hanno anche invaso tutta l'area del Sunset Park di Brooklyn, dove sono il 61%. Dilagano a Murray Hill, Flushing e Queensborough Hills, nel cuore di Queens. L'ultima concentrazione quasi tutta nera è arroccata a Bedford-Stuyvesant, Brooklyn. Harlem invece ha subito una metamorfosi brutale, guidata dalle leggi di mercato. La sua collocazione al confine settentrionale di Central Park ne fa una preda ambita dalla gentrification, l'imborghesimento. È l'unica zona dove procede l'invasione bianca, capitanata da un certo Bill Clinton, che lì ha preso ufficio. Perché un altro fenomeno sociodemografico interessante è il ritorno dei bianchi nel centro della città. È una spettacolare inversione di tendenza rispetto a decenni di American Dream, che aveva spostato i ceti medio-alti verso le ville, con giardini, nei sobborghi di periferia. Con l'avvicinarsi della pensione, le generazioni dei baby boomer riscoprono il fascino di abitare nel cuore pulsante della metropoli. Ma se si eccettua Harlem e un pezzo della Washington Heights dominicana, questo ritorno bianco scompare dalle mappe perché sommerso numericamente dai nuovi arrivi. La punta settentrionale di Manhattan e tutto il Bronx assorbono il poderoso aumento di messicani. Stanno spingendo via la più antica popolazione nera. Gli europei di nuovo ceppo vanno a occupare il confine estremi di questa New York 2010, nella penisola meridionale di Brooklyn, che si chiama Brighton Beach. Russi e ucraini sono l'84% dei residenti. Nel resto di Brooklyn avanzano gli haitiani, i bengalesi e i pakistani. Queens, che era stata uno dei primi sobborghi con ville per la piccola borghesia bianca, oggi è un riassunto di geopolitica dell'Asia. Oltre ai cinesi ci sono i coreani che occupano Fresh Meadows, gli indiani a Belrose, i filippini a Forest Hill. Ed è Queens che può vantare un fiore all'occhiello. Nel suo village c'è la più equilibrata composizione di tutti i maggiori gruppi etnici. L'ONU creata dal basso attraverso l'immigrazione. Avete ascoltato la lettura dell'articolo New York, così l'immigrazione cambia il volto della Grande Mela, di Federico Rampini, pubblicato dalla Repubblica di lunedì 24 gennaio.